Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Duty of Self Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Non delegare, partecipa! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa! Ci siamo, ritornano le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa. 21 e 7 minuti primi, questo è l'appuntamento del martedì sera con Do It Yourself Invasion. Siete all'ascolto delle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa sulla banda romana e laziale. Ed in diretta streaming dal sito ondarossa.info. Radio che trasmette dal 1977 senza pubblicità, senza padroni, senza padrini. E quindi l'invito è a tutte e a tutti a sostenere Radio Onda Rossa. Lo potete fare con diverse modalità. Sul sito, andando a cliccare su Sostieni, appunto, troverete tutte le modalità per sostenere questo progetto. E un altro modo per sostenere Radio Onda Rossa è quello di venirci a trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa per acquistare la nuova Scarceranda edizione 2017. Ricordiamo che per ogni agenda acquistata, quindi agenda più quaderno a 12 euro, ne invieremo una gratuitamente all'interno delle carceri. Quindi per qualsiasi informazione potete scriverci all'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. come ricordiamo lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Per le prossime presentazioni di Scarceranda vi invitiamo a consultare il sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, e quindi sulla colonna di destra avrete tutte le notizie inerenti alle future iniziative. La prossima iniziativa ci sarà questo venerdì 16 dicembre, che non sarà dedicata esclusivamente alla presentazione di Scarceranda, la potrete trovare come troverete il banchetto. Ma ci sarà la presentazione del libro di Radio Onda d'Urto, autobiografia di una radio in movimento. E quindi al 3 Serrando Occupato, in Viale Regina Elena 336, dalle ore 18 questo venerdì. E quindi un incontro con Sapienza Clandestina, i compagni e le compagne di Radio Onda d'Urto e Radio Onda Rossa. Allora, noi cominciamo le selezioni di questa sera facendo un balzo di 20 anni indietro. Eh sì, perché questa traccia è all'interno di una compilation uscita 20 anni fa. Che è Urla nel silenzio. Una compilation con tutti, con alcuni dei gruppi che facevano parte della scena della Val d'Aosta. E quindi tra gli altri gli Zoi, i Riven, gli Imprint, Abner Brain, i Frontiera e questi Coda di Lupo che vanno in sottofondo. Questa ce la riscoltiamo da capo. Loro sono i Coda di Lupo, Sto bruciando. Seguirmi, solo io che sto morendo. sto bruciando, solo io che sto morendo, solo io che sto bruciando, solo io che sto bruciando, solo io che sto morendo, solo io che sto bruciando, solo io che sto morendo, solo io che sto bruciando, solo io che sto morendo, solo io che sto bruciando, solo io che sto morendo. Sono io che sto bruciando, sono io che sto morendo, sono io che sto bruciando, sono io che sto morendo, sono io che sto bruciando, sono io che sto morendo, sono io che sto bruciando. E invece dopo l'esperienza dei Frontiera, questo è l'ultimo progetto di Sergio Milani, che ha abbandonato il punk e l'hardcore. Ha cambiato anche strumento, perché non suona più la batteria, ma bensì il banjo. E questo è il suo progetto folk, gli Ombra. Vabbè, il modo di scrivere i testi è sempre quello. Una vita di macerie che è sempre più mia. E questa è pomeriggio d'Aosta, ce la riascoltiamo da capo. e da Aosta ci andiamo a collegare dalle nostre parti. Pure spostati verso nord, un po' nord di Roma. Eh sì, loro sono gli ultimi. E quindi in attesa di avere notizie sull'ultimo lavoro, che credo sia imminente come uscita, fateci sapere, eh. Qui da un lavoro del 2010, appunto un mini dal nome Questi Anni, e questa appunto è la loro versione di Questi Anni, ce la riascoltiamo da capo. Yeah. facendo le discussioni su giochi. Allora, questa Setra è basata su principi di ideologia che ormai non hanno. Questa è la terza traccia dell'ultimo lavoro dei Razza a Parte. No, parliamo di storie vecchie di 30, 40, 50 anni fa. No? Uscito nel 2015, Brucia. Finito dove c'è, tu è morta mia la storia. Allora, imminente dovrebbe essere l'uscita del 7 pollici per gli Unborn. Con membri appunto dei Razza a Parte. Allora, mentre sotto già vanno gli Affluente. Qui dal sogno della merce. E questa è la 12ª traccia, Tra i lampi di miseria. Facendo le discussioni su giornali e televisioni eccetera, basato su principi di ideologia che ormai non hanno più un corrispondente nella realtà, no? Parliamo di storie vecchie di 30, 40, 50 anni fa, no? Niente sarà più come prima. Verso il lavoratore, sai, quelle cose che non esistono più, no? Il mondo è cambiato. Allora, questi appunto gli Affluente che non vediamo dal vivo da un pochino. Noi ricordiamo i contatti della trasmissione, non l'abbiamo fatto d'inizio puntata. Potete scriverci a fantasma@andorossa.info e quindi per proporci le vostre autoproduzioni, per segnalarci le iniziative, nonché per suggerimenti, offese, quindi scrivete. Invece il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 49 1750. Allora, noi cominciamo a spostarci geograficamente in Liguria. Lo facciamo attraverso i suoni dei 5MDR. Qui dalla loro La prospettiva del conflitto, questa è la traccia omonima. ci ruba tempo. Cos'è rimasto tra l'acciaio e il cemento? La schiavitù salariata accetta, ha messo il fiore alle finestre della cella. E la sua cravatta diventa un cappio, non riesce neanche più a vedere le catene. Tu resti quanto dai, non sarai mai nient'altro. Non conta quel che sei, ma quel che darai in cambio. Chi sei e quanto dai, quanto ti ha dato in cambio. Per tutti questi guai, quel che ti sta rubando. È un altro giorno uguale, è quello dopo ancora. Ti hanno rubato il tempo, ti hanno rubato. L'imperialismo sono terre nuove, la primavera ridondante esplode. Dicono i figli di un'altra gente, e un'altra volta ancora morti per niente. Sotto i palazzi si alzano le fiamme, e gli asserviti lanciano condanne. Credono ancora che un nuovo leader li salverà da sacrifici e da fatiche. Tu resti quanto dai, non sarai mai nient'altro. Non conta quel che sei, ma quel che darai in cambio. Chi sei e quanto dai, quanto ti ha dato in cambio. Per tutti questi guai, quel che ti sta rubando. È un altro giorno uguale, è quello dopo ancora. Ti hanno rubato il tempo, ti hanno rubato. Allora, sempre a Savona, sempre da Savona, vengono gli altri. Qui dal loro lavoro Fondamenta Strutture Argini. Mentre ci è arrivato l'ultimo lavoro degli altri, ce l'abbiamo solo su vinile, quindi ci organizziamo magari in una prossima puntata dedicata al vinile, appunto. Quindi l'ultimo lavoro uscito da poco, Prati, Ombre e Monoliti. Allora, questo invece dal lavoro uscito nel 2013, Fondamenta Strutture ed Argini. E questa è la terza traccia che ascoltiamo da capo, All'orizzonte. Allora, sempre da Savona, loro sono gli Sfera, qui del loro lavoro Nel buio. Gruppo che ci ha colpito particolarmente, li abbiamo anche avuti ospiti qui a Radio Onda Rossa, negli studi di Radio Onda Rossa. Da capo, eh? Bye. Allora, quelli che abbiamo appena ascoltato sono la Sintesi. Sempre da Savona. E quindi andiamo a chiudere questo cammino tra le rovine della mia esistenza, segnandomi catene addosso di cui non reggo il peso. Queste quattro tracce dedicate alla Savona hardcore. Appunto, abbiamo appena ascoltato la Sintesi da uno split con gli Sfera. E quindi molto molto bene. Perso in una zona d'ombra dove il tempo scorre immobile. La mediocrità che mi circonda è assillante, svuotato dalla vita stessa, eroso dall'inizio. Allora, invece loro sono sono gli Zona d'Ombra da un lavoro del 2014, Guerra all'apatia. E questa è la quinta traccia, Inverno infinito. Quindi da Como, appunto, gli Zona d'Ombra. Dall'ultimo lavoro, credo, sì, l'ultimo lavoro del 2014, appunto, Guerra all'apatia. Mentre ci spostiamo a Torino. Sì, perché da Torino ci sono i Flick Dance La Tête, qui da un lavoro del 2015. questa è la quarta traccia, Kairi. We'll be right back. Allora, mentre lo ricordavamo a inizio puntata, mentre questo venerdì 16 ci sarà la presentazione del libro di Radio Onda d'Urto al 3 Serrando Occupato, viale Regina Elena 336. Invece la prossima presentazione di Carceranda, la prossima tappa del tour di presentazione di Carceranda, ci sarà la CSOA Sans Papier in via Carlo Felice 69 questo sabato dalle ore 18:30. E quindi in collaborazione con Radio Sonar. E quindi questo sabato dalle 18:30 potrete acquistare direttamente dal banchetto di Radio Onda Rossa la nuova Scarceranda 2017. Dai. Allora, noi invece da Torino ci spostiamo qualche centinaio di chilometri a sud . Allora, questo sempre un lavoro uscito nel 2015, che è l'omonimo degli Shameless. Una coproduzione Mad Production Porro Zin. E questa è la seconda traccia, Eroe, gli Shameless. Vabbè, buona occasione per rimandare questo pezzo da capo. Perché dedichiamo questa traccia a un affezionato ascoltatore di Radio Onda Rossa. Questo è per te, Gabriele, Eroe. E con i The Crushers ci spostiamo in Sicilia. E qui da una raccolta che comprende l'EP Governo Ombra ed un'altra EP dal titolo Sicilia Nucleare. E questo è il pezzo Non Conformi, ce la riascoltiamo da capo. Allora, sempre questo venerdì 16 dicembre a Torre Mauro occupata. Quindi da Bologna ci saranno in contatto. Accompagnati dagli Scheletro, i Veranos Dogs e i Nofu. Allora, a proposito di Nofu, stiamo fremendo per ascoltare il prossimo lavoro di imminente uscita. Imminente, forse un altro paio di mesi, eh? Vabbè, noi ce le ascoltiamo dall'ultimo lavoro che è Mito Ciclicità. E questa è la loro Stanze. Jackson is dead! Ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, visto che ce n'abbiamo, cioè gli abbiamo dato un mozzico proprio a metà canzone, questa da capo, loro sono i Nofu e il pezzo è Stanze. Mentre dall'ultimo lavoro fino alla fine, lavoro che uscirà a febbraio del 2017 su Agipunk, questo è un pezzo in anteprima, ce lo riascoltiamo da capo appunto fino alla fine. E invece già va sotto infermità mentale un pezzo estratto dal lavoro, Evoluzione del 2007. Loro sono i Disforia, in attesa che esca lo split con i Drunkards. Sempre da capo, eh? Mentre da Viterbo loro sono in Hyde con l'ultimo lavoro Atomox 17, un cambio di sonorità dalla tradizione dei Hyde più vicina al grind. Stiamo gustando quest'ultimo lavoro più vicino a sonorità death metal. Questa è la quinta traccia, Saturated Child. We'll be right back. Allora, 22-21 minuti primi. E noi andiamo a chiudere con un ultimo pezzo la puntata di questa sera. Allora, segnalandovi un'altra iniziativa, questa volta fuori Roma. Se vi va di farvi una passeggiata, ci sarà l'ultimo concerto dell'ex mattatoio di Perugia. Per l'occasione un sacco di gruppi, tra cui Under the Bed, i Carneroli, i Refrain, i Cayman the Animal, i Marnero da Bologna, i Buffalo Grills da Roma. Nonché ci saranno anche gli Inferno. E credo sia il primo concerto dopo la reunion, appunto, avvenuta ultimamente. E noi andiamo a chiudere così con un pezzo degli Inferno, ringraziandovi per l'ascolto. Quindi l'appuntamento è per martedì prossimo 20 dicembre, sempre alle ore 21 qui su Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più caro va a tutti e tutti coloro si trovino privati della libertà personale. Quindi noi chiudiamo così, tra una mezz'oretta circa le trasmissioni ritornano in diretta con Morfire. Noi vi salutiamo così con gli Inferno. Yeah!